Benvenuti a Radio Warpa. Ed eccoci qua, siamo tornati in onda. Ho con me Beatrice Scaravatto. Scaravatto. È complicato il cognome. Non è un cognome banale. La quale le stavo giusto appunto dicendo che avevo un forte desiderio di intervistare. Sei anche rilassata, è un microfono che ha una sua personalità. È scenico, va bene. No, è un ambientale, ho sparato il volume a 1000, perché ho due ospiti e quindi per prenderli quindi tutti mi e due. Benissimo. Ti prende la grande. Allora Beatrice, noi ci siamo conosciuti 6 minuti fa, esatto, è già un piacere, Francesco. Grazie, gentilissimo. Allora, racconto un po'. Io mi sono proposto per fare queste dirette a Zona Warpa, ma giustamente non mi conosceva nessuno. E quindi, come dire, ho dovuto un po' grattare il programma, nel senso, man mano che usciva. E quindi il tuo nome è uno dei primi che è stato pubblicato sui social. E quindi sono andato a vedere un po' di cosa ti occupavi. E ne sono rimasto colpito. Mi sono detto, anche se non la becco al Gabrio, io questa la contatto, perché voglio farmi proprio raccontare quello che fa. Allora, però io vorrei partire dal tuo laboratorio. Tu hai fatto un laboratorio di 2 ore, 3 ore? Sì, 2 ore. 2 ore per, correggimi se mi sbaglio, spiegare come trasformare il proprio corpo in un campo da gioco. Una cosa del genere? Sì, una cosa del genere. Diciamo che è un laboratorio ludico, ma o meglio, esce da un percorso più grande che è fatto di un insieme di esercizi ludici, okay, per prendere più consapevolezza della nostra immagine corporea. Okay. Quindi di come noi percepiamo sia il nostro corpo che quello delle altre persone. Ok. Il laboratorio di oggi è un estratto di questo percorso. Okay. Il percorso sono 4 incontri, quindi è molto, okay, più lungo. Sono 4 incontri da 3 ore con lo stesso gruppo di lavoro, quasi, perché sono esercizi ludici, ma tocchiamo cose anche molto profonde, anche molto personali e anche molto sensibili. Immagino. E nel laboratorio di oggi in realtà era una chiacchierata guidata, okay, con delle domande. Ah. E diciamo che la struttura a cappello di tutto sono alcune regole, di cui la principale è che non si può rispondere ai racconti delle altre persone, okay, se non con domande. Quindi non posso fare commenti, ma devo trasformare quelli che sono i commenti in domande. Ti farò una domanda un po' strana. Vai. Ma tu hai esperienza dello psicodramma junghiano per caso? Allora, io no. È, okay, una cosa che si accaresta molto, soprattutto, sì, anche nei giochi di ruolo. Questo, okay, probabilmente chi gioca di ruolo si ritrova. E no, io personalmente no. Vengo, okay, da una formazione di game design, okay, e da una grande, grande passione per la psicologia. Però, infatti, quello mi ha colpito moltissimo. Perché una cosa che a me ha colpito molto, come dire, dei temi toccati da Zona Warpa è questo rapporto tra, diciamo così, l'esplorazione delle opportunità offerte dal gioco. Poi è chiaro che Zona Warpa ha un taglio molto legato al videogame, che tra le altre cose è anche una, come dire, una frontiera abbastanza inesplorata da questo punto di vista, quindi è molto interessante, molto stimolante. Molto. Mi sembra di capire che tu ti muovi su giochi più classici, passami il termine, certo, classici non so se è la definizione giusta, però mi interessava, mi ha colpito moltissimo il fatto che tu fai un'operazione nel tuo lavoro, immagino che sia un lavoro, uh-huh, che nel mondo del gioco è data un po' per scontata in certi ambiti e in certi altri non viene proprio notata. Cioè il fatto di usare il gioco per scoprire se stessi, quindi il gioco come anche modo per evolvere personalmente, per conoscersi, no? Sì, assolutamente. E tra l'altro una cosa che mi ha colpito molto, e sono andato un po' a informarmi, non moltissimo, però in realtà il tempo era quello che era, va bene, è che tu usi un'etichetta molto precisa che sono i Pervasive Games. Sì, bravo. Guarda che ho studiato. Guarda che sei una delle prime persone che mi intervista che mi riporta correttamente, no, il termine. Allora ti do un po' di background, visto che ci conosciamo da adesso da 9 minuti. Allora già sta cambiando. Io ho fatto nel 2011 un programma sui giochi, okay, era il tirocinio curricolare in antropologia, okay, dove parlavo dei giochi del mondo. Mi interessava fare un lavoro un po' d'antropologo, no? Raccontare che cos'è il gioco, nel senso, andando a vedere come lo affrontano le varie persone. E la cosa che mi è piaciuta del tuo lavoro, per tornare un pochettino a te, è il fatto che tu vai a toccare un aspetto del gioco che è, di nuovo, è nascosto ma importante, cioè il gioco come strumento di conoscenza. il gioco serio ma non troppo, e anche il gioco per creare narrazione, no? Narrazione comunitaria come nel tuo laboratorio, che ha delle regole molto simili. Io ho fatto psicodramma per un sacco di anni e ultimamente cerco di partecipare a dei gruppi perché mi piace molto. Il setting ha delle regole importanti, quindi questa cosa che tu dici, non si possono commentare, ma si può solo domandare, è proprio un esercizio di delicatezza profonda che solo in un setting studiato può essere effettivamente esercitato, ma è anche un aspetto di sicurezza, per cui assolutamente le persone nel gruppo si sentono a loro agio, poi si sanno che possono raccontare una cosa personale senza ricevere indietro un feedback giudicante. Assolutamente. Poi certo, allora, per dare un po' di inquadramento e parlare un po' di cose invece meno pratiche ma più teoriche, le basi del gioco in tutte le forme in cui viene proposto vengono dalla metodologia cognitivo-comportamentale della psicologia, che immagino che in qualche modo si interfaccia a un certo punto anche con lo psicodramma, perché le discipline comunque si intercettano e che abbia invece anche a grosse differenze. Sul tema della sicurezza delle persone giocanti, diciamo che è un bel temone che mi piace affrontare su tutti i campi, perché al di là dei pervasive games, di cui tra poco vi parlo solo per chi ci ascolta, perché già tu sai, però già che sai il termine, è un temore anche quello, però il prendersi cura delle persone giocanti per me è principalmente ascoltarne i feedback. Oggi ad esempio abbiamo creato 6. Ok, bello. E sia un gruppo, cioè ho fatto anche sessioni con una quindicina di persone, ma sono oggettivamente troppe. Però è un modo diverso comunque di affrontare, cioè si fanno poche domande, ma escono tante esperienze diverse, quindi comunque è una cosa che ti apre la testa su più fronti, mentre il numero che io indico per questa attività va dalle 3 alle 6 proprio, quindi oggi eravamo numero giusto, condizioni un po' difficili per il caldo assurdo e per un po' di rumore di sottofondo che era già contemplato, l'abbiamo detto all'inizio, quindi. E però tipo oggi abbiamo creato una meccanica mentre giocavamo che è quella che è già utilizzata molto nei giochi di ruolo, quella delle linee e dei veli, per definire delle tematiche che non si vogliono portare al tavolo ed evitare possibili trigger, che vengono chiamati così anche in psicologia, durante la giocata, che renderebbero la giocata non uno strumento positivo. Certo. Quindi oggi una delle persone si è interfacciata dicendo: io vorrei raccontare delle cose ma non vorrei che triggerassero delle altre dinamiche, e abbiamo creato, avevamo già parlato in altre sessioni di questo strumento che è utilizzato molto nei giochi di ruolo, e l'abbiamo messo in campo oggi. E quindi quello che ripeto è che nonostante sia un gioco che metto in pratica da 2 anni è in continuo playtesting, anche perché parlando di lavoro in particolare è difficile rendere economicamente sostenibili attività del genere. E spesso ma 2 anni vedrai, ma sì, vediamo. Però a me preme, perché un conto è un gioco di intrattenimento che comunque ha tutta la sua dignità, peso, ricerca, costi, ma fare queste attività senza un budget dietro è molto delicato, molto difficile. Quindi io premetto sempre che quando vi interfacciate ai giochi di minime differenze, che è il nome che ho dato al mio progetto, ragioniamoli come se fossero tutti in playtesting, che è la fase di gioco in cui si testa, in costante playtesting, così che le persone si sentano a pieno diritto di poter dare un feedback, perché se il gioco non serve a chi lo gioca, cioè no, a me piace comunque costruirli, però no, stiamo però parlando di cose hai detto diverse. Una cosa molto importante, nel senso che c'è un aspetto dei giochi che è fondamentale, cioè deve piacere a chi gioca. È tantissimo, e questo lo sappiamo, se non è piacevole, che poi piace, se non è bello, se che non cacchio è bello, giochi a esatto, fare. Esatto, cioè non è più un gioco, questo lo sappiamo. E quindi questa tematica mi piace molto che l'hai portata alla luce, non era per niente un tema scontato, e darei solo una spiegazione a questa etichetta pervasive games, che sono giochi che la definizione accademica è un po' più arzigogolata, nel pratico però sono giochi che utilizzano gli spazi e gli oggetti della vita quotidiana e li trasformano in spazi e oggetti di gioco. È ahimè, finora non se li sono cacati molto in Italia, ma stanno emergendo tanto, soprattutto su tutto il lato investigativo, quindi ad esempio le escape in città, le cacce al tesoro in città, gli eventi, i LARP, i giochi di ruolo dal vivo pervasivi, quindi fatti in luoghi dove tu ti interfacci anche con persone che non giocano, rientrano tutti nei giochi pervasivi. Però stavo pensando anche, e correggimi se è un'idea sbagliata, cioè il gioco che in Italia non esiste, cioè io non lo giocavo da bambino, però è una roba un po' più anglosassone, quello della lava, no? Sì, che il pavimento assolutamente diventa lava. Assolutamente, ma anche Nascondino, che l'abbiamo giocato credo tutti, ma anche Pokémon Go, che è famosissimo, abbiamo sempre quello di andare a catturare i Pokémon col cellulare, sono tutti pervasive game, ma manca ancora la parola, cioè non siamo abituati a chiamarli così, certo, e questa sì. cosa a me fa riflettere, perché è un tipo di strumento molto potente, li usiamo già in un sacco di contesti e non siamo ancora pervasi, e non li chiamiamo così, perché spesso si ibridano ad altre cose, quindi è un videogioco, è un gioco di ruolo dal vivo, però ad esempio questo che io porto è solo rientra nei pervasive game, ma non è un videogioco, non è un gioco da tavolo, certo. E quindi è difficile raccontarlo quando l'etichetta non è conosciuta. Ma senza entrare un po', senza entrare nel merito di quello che hai fatto oggi, anche perché c'è di mezzo il vissuto delle persone, quindi non sarebbe delicato, però come si gioca il tuo gioco? Cioè, che gioco è? È bella domanda. Allora, il gioco si chiama Pur sempre uno strumento, c'è una pagina, spero ben descritta, sul sito internet, però al momento... Sì, è un bellissimo sito, si chiama... Grazie, minimedifferenze.com. Ok, dai, così. Insomma. Grazie, tutto di mio pugno, ne sto uscendo... Non è male, è da raffinare, dai. Parecchio. Ed è in continuo mutamento, quindi oggi lo vedrete così, domani non lo sappiamo, ma la pagina rimarrà ed è la spiegazione del percorso dei quattro incontri. Al momento non è giocabile proprio perché a livello di sostenibilità economica mi sono interrogata molto su cosa fare, e sempre sul sito c'è nelle domande più frequenti c'è una riflessione che ho fatto proprio su che prezzo mettere, come muoversi, se cercare uno sponsor o meno. E ci sto ancora riflettendo, quindi al momento non è giocabile, ma ci si può iscrivere alla lista di attesa e quando si faranno cose vi avviserò. Ci sta. Comunque, scusami, ti ho interrotto, come si gioca a... Scusa, è anche un nome, no? Ha pur sempre uno strumento. È pur sempre uno strumento, non preoccuparti. ti dicevo proprio che al momento... Allora, se si dovesse giocare, si inizia con un gruppo di persone non conosciute, che è una delle clausole, e nei quattro incontri ci sono vari esercizi da fare tra un incontro e l'altro, e poi l'incontro è un momento di restituzione e scambio umano, quindi il primo incontro è per lo più un incontro di conoscenza dove si fanno tre domande, una per presentarci, chi sei, cosa ti piace, anzi le domande che in genere pongo sono cosa ti piace della vita e cosa ti fa arrabbiare, per presentarti. E le altre due domande invece sono che rapporto hai col tuo corpo e perché hai deciso di partecipare. Tra un incontro e l'altro, quindi il primo incontro c'è solo questo, poi a conclusione ci sono degli esercizi, e sono o esercizi di riflessione, quindi ad esempio raccontare cose, fare delle lettere scritte, o pensare, perdonami perché qui ci riflettevo anche oggi con le persone giocanti, tendo ad aprire un po' di parentesi una dentro l'altra, quindi se ti faccio perdere dammi un cenno. Ma riflettevo sul fatto che ad esempio lo strumento scritto, di scrivere delle lettere dove racconti ad esempio dei momenti della tua vita in cui provi fierezza per delle scelte che hai fatto, e questo pensiero può ricadere poi alla lunga anche su come percepisci il tuo corpo, per alcune persone è meglio scriverlo e per altre persone è meglio solo pensarla, questa cosa, quindi su questo ancora è un'altra cosa in fase di playtesting. Ma infatti quando uno la pensa e basta, poi cosa succede? Che poi se ne parla in gruppo, che è la parte potente di queste attività. Cioè, facciamo finta che stiamo... Ok, facciamo finta che stiamo giocando. Sì. Fammi una domanda. Cioè, te ne leggo una dal giardino, guarda. Facciamo una simulazione. Proviamo. E io la penso. Beh, ti faccio la domanda a zero e tu la pensi. Che rapporto hai con il tuo corpo? È una bella bomba. Allora, grazie per averci ascoltato. Passate. Okay. E chi ci ascolta, già solo pensando a questo, se iniziamo a pensare a questo è un bel tema. No, beh, scherzi a parte, è ovviamente un tema molto complesso, ma ho delle idee in testa. Però in questo caso io faccio quello che non le vuol dire, le sto solo pensando. Ok, non c'è l'obbligo di esprimersi, okay. E la potenza del gruppo è proprio questa, okay. Che il gruppo tende ad autoregolarsi, okay. Con la regola che ti ho detto delle domande è una, poi ce ne sono altre, okay. Per la tutela del gruppo. Tu puoi non dire, okay. Niente, okay. Ma ascolterai esperienze diverse da te. Ah, ok, va bene. Come sì, gli certo. Esercizi tu non hai l'obbligo di farli, okay. Ma solo pensare di farli, okay. In gruppo, poi racconterai che effetto ti fa pensare di farli. Okay. Ad esempio, ti invito a fare un autoritratto fotografico, okay. Con varie categorie, poi ci sono varie fasi per arrivare a questo invito, però molte persone non sono a loro agio a farlo, okay. Non è necessario che tu lo faccia, è necessario che tu provi a farlo e poi parliamo in gruppo di cosa ti è successo nel pensare, okay. Di farlo. Ok. Okay, non sì. So se è chiaro onestamente, no. Però vabbè, allora provo a riformularlo anche, sì. Per chi ascolta, chi sì. Ascolterà, visto che diventeranno i podcast, naturalmente tu avrai accesso, insomma, potrai usare come ti pare questa intervista, insomma, grazie. Se secondo te sarà un materiale valido, assolutamente. L'idea è questa: sono 6 persone, tu fai questa domanda, facciamo finta che ce ne sono 4 che rispondono e 2 che non se la sentono. Allora, i 2 che non se la sentono parteciperanno al colloquio attraverso l'ascolto, che si spera sia ascolto attivo, nel senso che stenti alle risposte degli altri, e poi probabilmente tu alla fine del giro rivolgerai a loro un'altra domanda, che poi è una domanda più generale, del tipo: come ti sei sentito ascoltando queste parole? Bravissimo, bravissimo. Ma poi succede, infatti, se un po' abbiamo vissuto questa esperienza, sì, un po', sì, sì. E spesso succede anche che alcune persone stanno in silenzio, certo. E poi il racconto di qualcun altro le attiva. Quindi in questa cosa mi sono ritrovato, oppure, okay. Questa cosa a me suona molto diversa. Con l'ottica della domanda non è quasi mai questo l'intervento, ma è tipo un racconto il mio vissuto, perché è quello di persona X mi ha scatenato dei pensieri. E quindi è un modo di nuovo di autoregolarsi del gruppo. Certo. Quindi è difficile, oh no, non è difficile, ci sono dei lunghi momenti di silenzio in questo gioco, certo. Ma è giusto e normale che ci siano. Certo, bisogna onorare i silenzi perché... Cioè, parti con una domanda che comunque non è una barzelletta, cioè bisogna anche un po' digerirla, e poi una volta che hai ascoltato riflettere su quello che hai ascoltato, quindi immagino che parte del tuo testing attuale sia anche capire il tempo, cioè sentire anche il tempo, nel senso che la riflessione ha una sua vibrazione nell'aria, quindi ti rendi conto quando stanno tutti rimuginando e quando magari puoi dire vabbè, adesso... Passiamo a parlarci. Esatto. Ma io ti volevo chiedere, oltre a come dire, alla parte dialogica, mm-hmm. Il tuo gioco consiste anche di esercizi parafisici? Allora, chiamo parafisici perché non sono proprio esercizi fisici, ma io vengo da, appunto, dall'esperienza di dei gruppi, diciamo, junghiani, dove c'è questa parte che si chiama riscaldamento, che secondo me c'è anche in altre parti, cioè non so, muoversi in una stanza, avere contatto visivo con l'altra, cose di questo tipo qua, cioè esercizi fisici minimi che però schiudono un po', sgrassano un po' quella tua imbarazzo di fronte a degli sconosciuti, per cui non ti sto chiedendo ancora di toccarvi, certo. Però iniziate a guardarvi o anche toccarsi, sì. Certo, allora in questa fase non prevede esercizi fisici, okay. O meglio, questo laboratorio che abbiamo fatto oggi, quello che mi sembra il capitino. Esatto, bravissimo, okay. Non li prevede una fase iniziale dove ci si racconta e ci si, okay. Presenta, quindi non c'è un momento fisico. Nell'attività invece più lunga, quella dei 4 incontri, ci sono delle attività di non proprio rompighiaccio, di autoconoscenza, okay. Legate a questa cosa dell'autoritratto, okay. Quindi però non immaginiamoci il laboratorio dove ci alziamo in piedi, facciamo lo, okay. Scambio di sguardi, ma semplicemente perché non è quella l'attività, cioè, okay. Non lo escludo neanche di inserirlo se, okay. Poi statisticamente mi è già stato richiesto un'attività, sì. Di rompighiaccio, sì. Ah, okay. Quindi uno dei gruppi che hanno fatto solo questo laboratorio, non i 4 incontri, okay. E quindi sto proprio tenendo traccia di quali sono i feedback per implementare, certo. Perché può avere molto senso. C'è un'altra parola che ho visto nel tuo sito che ovviamente a me mi ha fatto scattare 1 milione di lampadine, nel senso che tu metti in mezzo la parola narrativo, mm-hmm. Sbaglio? No. Ah, ok. E nel senso che, e di nuovo, correggimi se sbaglio, mi sembra di capire che per te il gioco è anche narrazione, no? Racconto di sé. Ma mi verrebbe da dire parlamene, cioè parlamene, sto qua ad ascoltare, perché è una cosa in cui credo molto, nel senso, cioè mi sembra che tu lavori sul fatto che le persone si raccontano in un certo modo e in qualche maniera il gioco prova a suggerirti la possibilità di raccontarti in un altro modo. Assolutamente. E qual è il rapporto, perché secondo te è così? Io, nel senso, adesso questa è una domanda un po' troppo chiedere, io ho 100.000 risposte perché è una mia ossessione, però per te, perché è così importante il racconto? Bella questa domanda. Anche questa è una bomba. E non mi sono preparato niente. Allora, bel tema. Io credo che il gioco ha un potere, prima ancora di un potere trasformativo che ha un potere di cambiarti il punto di vista sulle cose. Quindi ti mette proprio in una condizione di vedere delle cose che prima non vedevi. Su come noi come persone ci vediamo, abbiamo tantissimi filtri che non provengono da noi, o che provengono da noi e sono un po' distorti, o tante n motivazioni, per cui non siamo pienamente consapevoli di come possiamo essere, di come siamo. E il gioco semplicemente ci mette in un altro posto per vedere la stessa cosa. La narrazione è importante, ecco, c'è anche un tema perché tante persone mi chiedono ad esempio dov'è che ruoliamo con i tuoi giochi, e io penso, bella questa domanda, perché con i miei giochi non ruolate, stai ruolando te stesso, esatto. Che per il mondo dei giochi di ruolo immagino che alcune persone si sparerebbero su un piede, cioè l'ho sentito proprio dire, la mia vita non la ruolerei mai, e lo capisco, perché siamo, ahimè, in situazioni di vita pesanti. Certo. E penso che il punto sia proprio questo, che spesso prendiamo la nostra situazione di vita con un unico modo di vederla, perché non c'è l'energia, non c'è neanche l'invito a vederla in modo diverso, e spostando anche solo una degli ingredienti della vita, di come la nostra vita è composta, si vede tanto di diverso. E credo che questo il gioco lo faccia, perché ti mette all'interno di un contenitore sicuro che può essere narrativo, certo, ma può essere meccanico. Quindi adesso sto playtestando un gioco dove si ha un piccolo gattino di carta, okay, e lo si accompagna in città a fare cose, si fanno delle foto al gattino mentre svolge delle missioni, è un gioco che è già playtestato tantissimo, ho già utilizzato con altri formati, c'erano altri personaggi da accompagnare, altre cose, ed è una piccola meccanica che non ha tanto di narrativo, perché tu rimani tu, non cambi, non hai un personaggio, ma cambia. Però stai raccontando la storia del gattino. E stai tu creando la storia, quindi certo, ha una parte ruolata, però non come lo intendiamo di solito. E quindi è un bel tema, che ruolo ha la narrazione qua, un sacco, ma è talmente nuova come concezione che io faccio fatica a parlarne con persone del settore, con persone del videogioco, con settore del certo, gioco di ruolo, perché è molto difficile la transmedialità. E ne parliamo spesso col mio compagno, che si occupa di giochi di ruolo, di giochi da tavolo e di un sacco di altre cose, e è proprio difficile immaginare cose diverse, perché ognuno ha un po' il suo piccolo background. Perché questa è l'ultima domanda che ti faccio, se vuoi ti lascio libera, poi visto che ti ho letteralmente sequestrato dai tuoi amici al piano di sotto, e perdonami ancora per quello che ho fatto. No, anzi, è un piacere essere qua. Ci tenevo proprio tanto. Perché quando tu hai dei contenuti e puoi parlare di questi contenuti con una persona, chiaramente non è che hai bisogno di star lì troppo a rifletterci, no? Quindi ho detto, se io riesco a intervistare questa ragazza, parleremo di una cosa interessante, io avrò fatto una puntata, quindi 2-0. Va benissimo. No? No, invece la domanda è, come si fa a rendere giocoso un intervento, o comunque un'esplorazione così importante come può essere quella, senza scomodare la parola psicologica, che è quella del racconto della tua vita? Cioè, un gioco deve essere divertente, no? Bello questo tema. Immagino che sia la tua sfida principale. Deve essere piacevole, sì. Esatto. Che però piacevole, anche qui potremmo parlarne per ore. No, per farti un esempio, no? Per semplificare un pochettino la domanda, visto che è molto profonda. Certo. Per esempio, in che modo è stato, passami l'aggettivo, divertente, ma tu hai usato la parola piacevole, che è un po' diversa, ma ci sta, nel senso è molto sottile ed è molto interessante. Com'è stato piacevole il laboratorio di oggi? Cioè, come fai a dire che il tuo laboratorio è un gioco e non è un gruppo di psicanalisi? Bella questa domanda. E vai, quattro domande. No, perché è vero, sono domande anche molto intelligenti e non scontate. Allora, sul termine divertente faccio una piccola parentesi solo qui, perché c'è una battaglia in atto proprio dei nell'accademia, ma neanche chiamarla così, che i giochi non devono essere sempre divertenti. Okay. Il fatto che tu ti senta ingaggiato a giocare non è dato per forza da un divertimento. Certo, e ti faccio l'esempio che porta spesso la persona di riferimento di questa teoria, che è Francesco Ruggerfred Sedda. Che prendiamo ad esempio un film, noi guardiamo film horror, film certo. tragici, e tu non chiederesti mai di un film horror dov'è che è stato divertente, però vai a vederlo, esatto, però vai a vederlo comunque, come di un film che ti ha devastato emotivamente perché è tragicissimo, grandi appassionati di film tragici e romantici devastanti, che però vanno a vedere questo film certo. per una piacevolezza, ok? Certo. Non mi addentro più di questo, altrimenti attacchiamo una pippa troppo lunga, però è per dire che gioco non significa per forza divertente, voilà. E anche a questo ci stiamo un po' educando okay. col tempo, è normale però, perché la cultura ci ha detto il gioco è divertente, il gioco è per bambini, quindi benissimo che abbiamo tutti questi dialoghi. Ma anche i bambini, cioè io da bambino ho preso un sacco sul serio un sacco di miei giochi, e io prendevo molto personale il nascondino, okay. cioè tipo... mi nascondevo tanto, okay. e magari mi saltavo un giro. Okay, perché la gente non mi trovava. Non ti trovava. Io pensavo, ma dai, che stronzi, però. È giusto. Però la prendevo super sul serio. Cioè, andavo, mi devo ficcare in posti incredibili. Volevi proprio non essere. Una volta ho scalato un. Ero su un sul tetto. Madonna, ero sopra la persona che contava. Madonna. Vabbè, ero adolescente, ero già sì, grande. Ok. Però per dire, nel senso. Sì, puoi prenderli sul serio i giochi. Assolutamente. Anzi, forse quando sei piccolo, adesso da adulto, questa cosa la posso dire. È uno dei modi in cui distingui i bambini tra quelli che giocano un po' così e quelli che vanno bene entrambi, però sono due tipi proprio di approcci diversi, cioè quello che vuole vincere e quello che sta bene con gli altri. Eh sì, sono approcci diversi, l'hai detto proprio bene. E per risponderti alla domanda di prima, non è un gioco che è pensato per essere divertente, è un gioco che è pensato per metterti in una situazione diversa da come sei normalmente, per parlare di cose che sono piacevoli da sentire e da raccontare, perché non hanno uno spazio per essere ascoltate e raccontate. Quindi non è divertente nel senso di giochiamo a tabù e ridiamo. Ok. È un'altra forma di divertente. Ok, si sono divertite le persone. Allora, ho appurato che sono state bene. Ok. Non hanno descritto l'attività con la parola divertente, perché non è questo, però l'hanno descritta come un'attività piacevole, nel senso di utile, che ha aperto delle porte, che ha dato dei punti di vista e che al contempo, tu dici come si fa a distinguere da una sessione di psicoterapia, non è una sessione di psicoterapia, okay. E a volte forse però non si distingue, perché alla fine la psicoterapia è un po' è un gioco di ruolo. È una domanda trabocchetto, perché nello psicoterapia junghiano si dice che si gioca. Cos'è? Nello psicoterapia junghiano si gioca, cioè un termine tecnico. Quindi, e qui ecco, vedi, dovrei infatti approfondire tutto questo lato da cui a volte mi spavento. Allora, per esempio, lei, mia moglie, lei mi ha conosciuto che io leggevo un libro di psicodramma. Okay. Il primo, perché era. Lo raccontava questo Romero, che è l'inventore dello sì, psicodramma. Che poi è uno di quelli che ha messo le basi del gioco di ruolo. Infatti, esatto. Stiamo andando lì. Il fatto è che se tu leggi quel libro lì, pensi forse Romero era un po' pazzo. Nel senso che lui l'ha presa veramente radicale, nel senso che gli esercizi erano esercizi dove metteva le persone, per esempio, in condizioni di emergenza. Cosa faresti se c'è un incendio? Cioè, aveva un approccio duro, ma perché i tempi non si conoscevano le sfumature di questa cosa. Però effettivamente, cioè, questo tipo di attività va a incrociarsi in mezzo a tutto quello che è teatro anche. Quindi, nel senso, in qualche maniera, cioè, noi come italiani questa cosa qui l'avevo capita, cioè l'avevo scoperta, l'avevo imparata proprio quando cercavo di capire io stesso cosa volessi dire giocare, perché a me piace tanto giocare a tutto, quindi volevo anche scoprire un po' me stesso. E è più facile in inglese. In inglese usano to play. È e vero, voilà, e lì risolvono tutto, no? È vero. Noi col giocare abbiamo un po' creato una specie di recintino per delle cose che sono tante, per cui il recitare, il confidarsi, il suonare, appunto ogni attività che in qualche maniera sospende la realtà e ti mette in una versione alternativa delle cose, lì diventi, lì in teoria, è gioco. Poi però chiaramente e questa è una grandissima lezione che ho imparato, si decide che gioco solo alla fine, non decidi mai se è un gioco all'inizio. Mm. La cosa figa dei bambini è che se un gioco non gli piace, lasciamo perdere diverso, se un gioco non gli piace smettono. Mm. E magari alcuni bambini continuano a giocare e un bambino dice no, a me non piace quello che stiamo facendo. Ci sto. Sono tanti temi, perché anche sulla questione di cosa giocare e cosa no è proprio un bel tema. Non so se siamo pronti energeticamente a livello di temperatura esterna ad affrontarlo adesso, ma in futuro no, però è stato veramente un piacere. Io ti lascio libera e ti auguro in bocca al lupo per quello che sarà anche un viaggio abbastanza personale. Sì, assolutamente. Comunque ti stai assorbendo un sacco di energie di ogni tipo dall'esterno. Beh, per me io faccio giochi anche proprio per un bisogno di vedere mondi a cui non ho accesso, e una cosa di cui ho avuto proprio la piena consapevolezza facendo partire questo progetto, che nasce da un altro gioco, che era legato ad altre attività, più simile a quello del gatto, ecco. Okay. E uno degli inviti era parlare di cose di cui ci si vergogna della propria vita, e io mi aspettavo che la risposta fosse tante cose diverse, da, non lo so, ho tirato uno schiaffo da bambino al mio vicino, e tutte le persone hanno parlato solo di corpo, persone che io a vederle da fuori pensavo, ma come può questa persona pensare che ha un naso troppo grande, cioè io non lo penserei mai del suo corpo, grazie a Catto, mi sento di dire col senno di poi, e tutto legato magari al commento ricevuto dal babbo tempo fa. E questa cosa mi ha fatto dire, ok, indaghiamo un po' di più, perché magari è proprio il target che ho beccato, cioè a quel gioco avevano giocato 400-500 persone, quindi è un target già molto vasto, per i miei numeri perlomeno, però ho pensato, indaghiamo un po' di più, e più vado avanti, più vedo proprio, col nostro corpo non abbiamo un buon rapporto, cioè a livello universale non esiste, cioè o meglio, aspetta, non è vero, ci sono persone che hanno un ottimo rapporto col proprio corpo, ma che si sono decostruite col tempo, non è che dicono ho un bellissimo rapporto, punto. E l'ho dovuto imparare. Sì, l'ho imparato in modo automatico, quindi non è stata una fatica, però comunque è stato un percorso, perché siamo in un contesto che tende a schiacciarci da quella zona lì. E quindi io ho molta sete di altre narrazioni, come vorrei fare la stessa cosa sul mondo del lavoro o sul mondo degli affetti, perché sono cose in cui prendiamo tantissime narrazioni bevute e non riusciamo neanche a porci delle domande e immaginare cose diverse. Sentire che anche gli altri hanno la stessa condizione ti cambia tutto, quindi per me le sessioni sono sempre molto arricchenti e non lo vivo come una fatica, vivo più come una fatica rendere sostenibile le ore di progettazione, cioè dire immagino una versione più curata rispetto ai feedback ricevuti, o cercare le persone che giocano, questo è, quindi eventi così sono una manna, perché... No, tra le altre cose, vabbè, involontariamente o no, hai messo i piedi anche su una roba di cui abbiamo parlato anche con i ragazzi di Zona Warpa, che riguarda appunto il rapporto tra le persone e il lavoro, nel modo in cui si costruisce l'identità attorno al lavoro, per cui alla fine... Anche persino parlare di cose che ci vergognano e ci mettono in imbarazzo può essere più piacevole che non procurarsi da mangiare i soldi per pagarsi la bolletta. Beh sì, assolutamente. Ma d'altronde, vabbè. E Beatrice, grazie davvero. Io adesso metto su una canzone così ti libero e proseguo con la diretta. Grazie di tutto, è stato buona veramente serata. Un piacere, ciao. Ciao. torniamo in onda su Radio Antidota. Lascio questa cosa che si chiama Raji, An Ancient Epic, che è la colonna sonora di un videogame che sinceramente non conosco, ma volevo tenermi un po' con delle musiche a tema. E niente, ho ancora 20 minuti, quindi io vi proporrei dei contenuti che ho raccolto oggi. Ne ho ancora altri, ma mi sono, comunque dire, dedicato nel tempo libero a intervistare un po' di persone, non tutte, perché non volevo, come dire, bruciarmi tutti i materiali oggi, però insomma, così ho avuto l'occasione di conoscere anche delle persone, passatemi il termine, le persone tipo, cioè le persone che partecipano a Radio Warpa. Radio Warpa che si è rivelata tutto sommato una kermesse molto ricca, e posso assicurarvi che le persone stanno al gioco, ecco. Vengono proposti dei giochi che sono dei giochi diversi dal solito, anche sofisticati, però il discorso è che la cosa importante è il fatto che c'è il gusto nell'esplorare, c'è il gusto nel provare un pochettino ad accettare la sfida di questi giochi più fuori dalle righe, fuori dagli schemi, giochi che si propongono di essere alternativi al mondo ludico al quale siamo abituati il più delle volte. E come avete visto, abbiamo mondi anche differenti, perché abbiamo parlato di videogame con i due Matteo, e uno dei due Matteo ha un gusto più, diciamo, sofisticato, anche più in qualche maniera approfondito su alcuni temi, e l'altro Matteo voleva fare il regista di 007, ma non è quello il punto è incontrarsi in uno spazio dove si può ancora essere sfidati in quello che sono le nostre idee sull'immaginazione, ma anche sulla sospensione dell'incredulità tipica di un gioco quale che sia. Cioè, se tu stai giocando vuoi essere portato in un mondo alternativo, e qui appunto di mondi alternativi ce n'è un'ampia selezione. Quindi io vi manderò un'intervista doppia. L'intervista che ho fatto a due persone che erano seduti l'una a fianco agli altri, due persone che hanno presentato i loro videogame, al quale ho visto molte persone giocarci, e che in qualche maniera, forse più di altri, meglio di altri, rappresentano, come dire, lo schema tipo, le persone tipo che potete incontrare qui, forse, chi lo sa. Domani intervisterò ancora altre persone, spero, e quindi vi saprò dare, come dire, un identikit un pochettino più ricco dei frequentatori di Zona Warpa. E per adesso vi mando un jingle e poi l'intervista. Radio Warpa. È stata una cosa bellissima. Ma vi posso fregare un po' di tempo per farvi un'intervista? Perché io ho quella postazione lì, è la web radio di Radio Antidoto. Qua posto. Sono, esatto, nel senso, farò due dirette oggi, due domani, e quindi sono affamato di contenuti e volevo chiedervi innanzitutto come vi chiamate. Riccardo, è un pseudonimo santo. Santo? Santo. Ok, santo. E Giuseppe. Giuseppe, che ha un mano alla spalla. Quello che ha mano alla spalla, che è venuto senza cabinato. Esatto. Ma quindi questo gioco di solito è quel cabinato? Mediamente in giro lo portiamo con un cabinato, okay, di legno grande, grosso e pesante. Cioè, sì, lo immagino, non se ne parla. Una periartrite della spalla destra, direi che non è proprio il massimo. Non so cosa sia, però immagino sia doloroso. Allora, quindi il tuo progetto si chiama? Il mio progetto si chiama West Rage. West Rage, il tuo? PG Project Genesis. Ok, quindi il tuo è un cabinato e il tuo pure? No, il mio è un gioco PC. È un gioco per PC tradizionale, sì, diciamo. Sì. Come siete venuti a conoscere di Zona Warpa? Allora, io conta che l'ho conosciuta completamente random, penso 2 anni fa, okay, tramite una storia di una persona che seguivo su Instagram. Vedi. Completamente random. E questa è la prima volta che partecipi o sei... No, sarà la Cos'è la... Allora, che partecipo come sviluppatore è la seconda volta che ci vado, penso sia la terza. Ok. Terza. Ok, e sei di Torino? No, sono di Vicenza, Veneto. E tu stai arrivando da Vicenza? Vicenza. Ok, sì, sì. Quindi sei uno di quelli in trasferta. Sì. E tu Giuseppe da dove vieni? Io vengo da Asti. Ok, quindi sei già più vicino. Non è solo un gioco per cabinato, il cabinato è una struttura per portare in giro. È un gioco che esce per Windows, per Mac, per Steam Deck, per Linux. Anche Steam Deck? Sì, per Switch. Per Switch? Per Switch, siamo pazzi. È una questione di tutte. E qual è, quante edizioni ti sei già fatto di zona Warpa, Warpa? Voi lo chiamate Warpa? Warpa? Warpa. Warpa? Ok, Warpa. Bene, bene. Ho preparato delle sigle. Non si io mi sono fatto le due di Milano. Ok. E adesso siamo venuti a Torino. Ok, quindi allora una domanda che vi voglio fare. Io è la prima volta che vengo a zona Warpa. L'ho scoperta tramite il sito di zona Warpa. Non so come ho fatto, non mi ricordo più. Mi sono proposto e sono qui. Tre edizioni, due edizioni. Con queste tre. Con queste tre. Cosa vi piace di questo festival? Allora, io ti posso dire, noi siamo indipendenti sul serio, nel senso che noi siamo un gruppo che non ha neanche studiato per fare giochi. Ok, io vendo computer, la mia dipendente è praticamente la mia metà in questo gioco, è un architetto, laureato in design, fa i vasi, fa altre cose. Non è... ci siamo buttati a fare quello. L'idea di Zona Warp era un'idea precisa di videogiochi, fatti veramente... a chi non fa questo nella vita. Ok. Secondo me è una bella cosa, una bellissima cosa. Certamente. Noi ci siamo fatti l'ultima volta a Milano, due giorni interi, ci siamo fermati proprio a Milano per farci la zona guardia, perché è importantissimo, perché ti dà un'idea, soprattutto da quelli che sono sviluppatori, se stai facendo una cazzata o no. Quindi anche un modo per incontrare le persone del settore, hai un'idea, diciamo. A chi sta facendo qualcosa, ti prendi delle idee da chi sta facendo qualcosa, ti aiuti, che è una cosa bella. Ti giro la stessa domanda. Ti dico, allora, a me molte cose, in sostanza il fatto che, appunto, come hai detto anche te, come ha detto Giuseppe, che ha un logo comune dove appunto ci si becca tra sviluppatori, cosa che in Italia si sta smuovendo ormai da due annetti, non è che c'è un evento del genere, non c'era mai stato prima, cioè prima del Covid. Quindi dev prima ci parlavi solo online sostanzialmente. Sì, era abbastanza, cioè almeno io ti parlo per me, non li trovavo in sostanza sviluppatori indipendenti, quindi ha dato modo di raggruppare tutta la scena, insomma, italiana del gaming, non solo del gaming, videogiochi, anche appunto giochi da tavolo o comunque sì, intrattenimento in generale. Poi la cosa che mi piace è sia che è molto appunto aperta a tutti tranquillamente, e anche il fatto che spazia anche per esempio da workshop, talk, certo. Per esempio a Milano ci sono state delle serate anche musicali, chiptune, quindi anche questo spaziare, sempre comunque stando nello stesso tema, sempre del gioco, dell'intrattenimento, certo. Ci sta secondo me. Tu ti guarderei qualcosa del programma o starei solo qui a presentare? Devo stare qua. Ma tanto voi vi conoscevate già, io mi sono imbucato perché vi ho visto per lottare, te ti avevo già visto. L'ho conosciuto a Zona Warpa. No, a svilupparti. No, ma ci siamo beccati in zona Warpa, la sì, la prima volta zona Warpa di Milano. Prima volta zona Warpa. Allora vi chiedo, allora, anzi, partendo da Giuseppe, cos'è il tuo videogioco? Di cosa parla? Il mio videogioco è una pazzia, nel senso che a me piacciono i giochi da bar di una volta. Ok, sì. Li adoro la semplicità. Ma ti posso chiedere quanti anni hai? Io. Dai, tanto io ne ho 42. Voilà, dai. È l'età di mia moglie, oggi mia moglie ha fatto 42 anni. Tutti auguri! Parentesi. E l'idea era di fare qualcosa che fosse molto su quello stile. Certo. Poi ci è venuta sta pazzia, di dire no, facciamo tutta una serie di meccaniche vecchie da bar. E adesso il gioco a 16 livelli, ci sono 7 meccaniche. Ok. Perciò è una pura pazzia. Molto semplice, non c'è da scegliersi il cappello, comprarti. No, è un gioco che te lo compri, ci giochi e lo finisci. Non finisce. E lo finisci. Ah, lo finisci, ok. È un gioco da bar. E di che cosa? C'è una serie di meccaniche. Allora, le due meccaniche principali sono il picchiaduro, okay, e lo sparaiolo classico, okay, da barra shootman up. Lo sì, sì, quella, ma quello a scorrimento, quindi? Sì, sì, sì. Picchiaduro a scorrimento. Picchiaduro a scorrimento, come fosse essere Final Fight Double Dragon, okay, oppure il classico sparaiolo come... Space Invaders. Ah no, quello... Ma c'è anche un pezzettino alla Metal Slug. Ah no, questo qui è effettivamente più Space Invaders, questa roba. Space Invaders, come il mio grande amore, Asteroids. Ok. Perciò era fare tanti stili. Una specie di tributo. Un tributo a tanti giochi, ci sono anche tante cose, tante musiche rubate. Anche perché in tanto sono povero, perciò rubate. Fatemi la denuncia così sono contento. Quel personaggio, ci volevamo mettere un personaggio che fosse forte. Ho pensato, mia moglie che è fortissima, odia i videogiochi, ho detto il personaggio perfetto, la buttiamo in un mondo di videogiochi gestito da uno che sembra Flavio Briatore, si chiama Flavio, okay, che è una testa di cazzo, e lui è perfetto, è la persona perfetta come testa di cazzo. E lei mi ha odiato da quando abbiamo iniziato il gioco fino adesso, però è un'idea particolare. Quindi è l'avventura di tua moglie che deve... L'avventura di mia moglie che deve scappare e distruggere i videogiochi. Ah, tutti i videogiochi? Tutti i videogiochi del gioco, però. Ok, non tutti, il concetto tutti, è che lei ce l'ha su con i videogiochi. Lei c'è morte con i videogiochi e ti ficco dentro un videogioco e tu mi distruggi. Ah, bellissimo. Ok, invece tu qual è il tuo gioco? Allora, questo qua è un ibrido, diciamo che principalmente è uno stealth puzzle game adventure. Wow. Tutto compensato, un mix ambientato nello spazio, okay, in una sorta di stazione spaziale aliena. Tu sei il creatore del genere umano, in sostanza. Ah, sei un angelo, sei okay, io. E in sostanza, stai iniziando il primo turno e devi recuperare Adamo ed Eva, che sono appunto i due prototipi primordiali del genere umano, poiché l'astronave è stata invasa da dei mostri. Ho questo capito. Qua è proprio la, la, e tu praticamente questo, devi saperti nascondere perché stealth, devi risolvere dei puzzle. Esatto, okay. Ovviamente è una cosa molto blanda, nulla, okay, di complesso. Ok. La cosa particolare è che ogni livello, adesso io ho portato questa demo qui che è un, sì, livello solo, ogni, okay, livello avrà un approccio diverso di nascondersi da, okay, dei nemici, evitare i nemici perché non li puoi uccidere. Per esempio in questo qua ci sono dei mostri, dei fantasmi, chiamiamoli così, che un po' come Medusa ti pietrificano, se ti vedono ti pietrificano, okay. Tu per nasconderti devi chiudere l'occhio, devi chiudere gli occhi, okay, e stare fermo ad aspettare che, ok, fossimo. È una cosa... roba tipo Metal Gear, quello, il primo che c'aveva l'area. Sì, praticamente sì, però qua devi appunto, c'è questa cosa un po' particolare, cioè particolare, sono degli alieni che non riescono a vederti se hai gli occhi chiusi. Ma cosa... non tu persona, tu omino. Sì, sì, lo è il personaggio, ok, sì, sì, okay. Cioè così, per farti capire. Allora, abbiamo l'omino che ha un peraltro ha un solo occhio. Un solo occhio, sì, più sì, facile. Sì. Un solo occhietto, tu lo chiudi mentre ah, passa. Voilà, e lo schermo si chiude. Quando tu chiudi gli occhi, diventa tutto si scherma lo schermo. E... quindi devi anche essere bravo col timing, perché tu vedi di meno sullo schermo. O non sì, vedi non ti devi muovere, devi aspettare, è una cosa molto istantanea, cioè appena passano loro appaiono all'improvviso, le luci sfarfallano, ovviamente qua non ci sono, però okay, andando più avanti poi le luci sfarfallano, quando sfarfallano vuol dire che si stanno avvicinando, tu devi fare quindi boom così, okay, chiudi e poi lasci che passino. È una cosa che si basa anche molto sull'attesa. Infatti. E così. Va bene, grazie. Ma faccio un'ultima domanda per vi lascio andare. Da quanti anni è che ci lavorate ai vostri progetti? È maggio di 3 anni fa. Ok. Più di 3 anni. Ok. Un anno. No, in realtà neanche 9 mesi fa. 9 mesi, vabbè. Ragazzi, grazie mille del vostro tempo e buon divertimento. A te. Buon proseguimento. Ra. Dio. War. Pa. E questo è tutto, gente. Non ho più altro da dire a riguardo. Sono le 18.56, è sabato 21 giugno 2025. Forse mi è caduto il bicchiere con cui bevevo l'acqua, non lo so. Ho sentito cadere della plastica e sto già smontando. Domani sono di nuovo qua e ho dell'altro materiale che ho raccolto. Ne raccoglierò ancora altro. La birra al Gabrio è forte, devo dire, questo lo devo dire. È anche vero che sono stomaco abbastanza vuoto e mi sono divertito, c'è una bellissima atmosfera, il tempo è volato e sono molto contento di come sia andata questa giornata. Per chi ha ascoltato, spero che anche per loro sia stato interessante. Siamo riusciti a parlare di cose non banali, in 2 ore, 2 ore scarse. E no, più di 2 ore. Questa puntata dura meno dell'altra, però alla fine insieme mettiamo su 2 ore, quindi, come dire, la prima giornata l'abbiamo portata a casa. E speriamo di portare con altrettanto successo e divertimento anche la seconda. Vi abbraccio forte e vi auguro una buona serata da, per una volta tanto, non da Rigonia, ma da Radio Warpa. Arrivederci su Radio Warpa.